Il punto di Stefano Folli. Dice Berlusconi che Alfano e gli altri dissidenti filogovernativi seguiranno la malinconica parabola politica di Gianfranco Fini. Può darsi, ma oggi non è questo il punto della questione. Il nocciolo è che si sta creando un gruppo parlamentare, ormai disposto, almeno a parole, a distinguersi dalla volontà e dall'egemonia di Berlusconi, sostenendo il governo anche quando il vecchio leader decidesse di uscire dalla maggioranza. Sarebbe una rivoluzione del quadro politico. Questa operazione fallirà? Oggi non può saperlo nessuno, nemmeno Berlusconi. Dipenderà da molte cose, in primo luogo dalla capacità di Enrico Letta di reggere la scena e di intercettare l'anno venturo la ripresa economica europea. Ma Berlusconi dovrebbe sapere che la storia non si ripete mai identica, nonostante certi luoghi comuni. La sconfitta di Fini era avvenuta in altre circostanze. Il tempo passa e gli uomini invecchiano, anche quelli che hanno dominato la scena per un ventennio.